Ilario Fioravanti, Epifanie del dolore e della gioia. Siamo qui per parlarne insieme. Marisa Dattini, sono la curatrice ed è un'esperienza straordinaria questa, ritrovarci in un polo museale come questo, veramente straordinario, impressionante, con il compianto di Niccolò Dall'Arca nella chiesa adiacente. Siamo nel centenario della nascita di Ilario Fioravanti, nato nel 1922 a Cesena, e nel decennale della morte, perché è morto nel 2012. Quindi questa mostra vuole celebrarlo e ricordarlo mettendo antico e contemporaneo a confronto. Ecco perché questo compianto sul Cristo morto io credo possa innestare un dialogo molto proficuo con quello di Niccolò Dall'Arca eseguito 500 anni prima. Infatti ci troviamo in un luogo in cui ci sono due compianti, no? Insieme uniti. È stata proprio una scelta volerlo qua insieme. Sì, una scelta, anche perché il contemporaneo con l'antico mantiene un filo rosso, un fil rouge che li lega in modo differente. Abbiamo una lamentazione veramente teatrale da parte di Niccolò Dall'Arca, abbiamo invece un dolore trattenuto diversamente nel compianto di Ilario Fioravanti, una compostezza nel silenzio, e anche di qui il titolo Epifanie del dolore e della gioia, perché dalla consapevolezza e dal passaggio del dolore, sapendo poi della resurrezione di Cristo, quindi è un'anticipazione della gioia, così come pure i miracoli delle opere che abbiamo selezionato. Fino a quando sarà visibile e anche come? Non so se è la persona più adatta a cui chiederlo, però glielo chiedo lo stesso. Resterà aperto al pubblico fino al 25 settembre prossimo, quindi 6 mesi di apertura. E gli orari sono quelli del museo, e quindi dal martedì alla domenica, dalle 10 alle 19, tutti i giorni esclusi il lunedì. Grazie mille. Prego, grazie.